Quelle due presentano Desiderando legger contrattino e asterisco polisemici. Reading di letteratura lesbica di fine millennio. La difesa di Shora. Spinel rabbrividì e si fregò il palmo delle mani, che si era raggrinzito a causa della lunga immersione. Ben presto il sole lo asciugò, fatta eccezione per i suoi calzoncini da bagno, e questi cominciarono a prudergli. Adesso soltanto un pensiero lo tratteneva. Una volta che fosse tornato alla zattera dei mercanti, ci sarebbe rimasto, qualunque cosa accadesse, fino al prossimo Luna Ferri. Avrebbe fatto qualunque cosa per andarsene da quel pianeta e ritornare a Crisoport, anche se avesse dovuto passare il resto dei suoi giorni a scalpellare tessere nell'interrato di suo padre. Ma prima, Lystra avrebbe dovuto condurlo dal mercante, sempre che ne avesse avuto mai l'intenzione, cosa di cui sempre più dubitava. Forse avrebbe potuto prendere lui stesso la barca, ma come avrebbe fatto a navigare? Questi interrogativi lo ossessionavano mentre saltava giù dal ramo della zattera per seguire Lystra. All'estremità più lontana, proprio dove i rami si assottigliavano e si immergevano sott'acqua, c'era un'imbarcazione che a prima vista sembrava uguale a quella di Merven. Spinel corse avanti e saltò a poppa. «Ehi, dov'è il motore?» A poppa non c'era niente. Lystra si voltò verso di lui. «Non ho mai usato quei rumorosi oggetti di pietra e puoi riferire ad ogni mercante qui intorno che sono stata io a dirlo». Afferrò una pagaia e la sollevò così in alto che Spinel pensò che volesse colpirlo, ma un istante dopo la spinse contro un ramo della zattera. La barca cominciò gradualmente a muoversi, carica com'era di balle di seta marina filata. «Te l'ho soltanto chiesto», disse Spinel imbronciato. «Cosa farai allora? Ti metterai a remare con questo affare in mare aperto?» Lystra buttò indietro la testa e scoppiò a ridere. «No, volerò via fino alla luna di pietra. Uno di questi giorni lo farò», aggiunse come se stesse parlando tra sé. «E una volta che l'avrò fatto, Valano, stai attento. Ma ascolta, se odi davvero tanto i mercanti della luna, perché ti dai tanta pena per loro?» «Una buona domanda». Con un movimento rabbioso spinse di nuovo il ramo. «Vorrei che un numero assai maggiore di noi se lo chiedessero. Chiedilo a Merven. Lei era viva quando sono arrivati i primi mercanti, ma tu lo devi ben sapere, moccioso dei mercanti». Il sangue gli affluì sul viso. Spinel serrò i pugni, si protese attraverso le balle di seta marina e urlò: «Io non sono il moccioso di nessuno, sono il figlio di un tagliapietra. Ho un bravo padre con un rispettabile commercio, il che è più di quanto tu possa dire. Nessuna di voi ha pietre emblematiche, siete peggio dei mendicanti». Lystra lo fissò gelida. «Soltanto i Valani considerano il mendicare una professione. Cosa hai fatto tu da quando sei arrivato qui? Chi ha lavorato tutta la mattina e chi pagherà per il tuo cibo?» «Ho detto che non voglio niente da voi, me ne torno a casa». Spinel si tuffò fuori dalla barca e si mise a nuotare senza la più pallida idea di dove andare. Nuotò alla cieca in mezzo ai rami, incurante dei calamari che schizzavano via tutto intorno o dei frastagliati ventagli di corallo che si profilavano davanti a lui senza preavviso. Dopo neanche mezzo minuto qualcosa lo afferrò da dietro, affondando nella sua spalla. Si sentì soffocare e si girò di scatto per respingerlo. Era Lystra, la quale lo sollevò senza tanti complimenti su un ramo asciutto. I cirripedi gli erano penetrati nel petto e nelle braccia e il sangue gli colava copioso. Il sale gli faceva bruciare le ferite. «Siediti e rimani fermo, per amor di Shora», annaspò Lystra con il seno che si alzava e si abbassava convulso. «Perché mai pensi che io abbia camminato sul ramo invece di nuotare? Qui c'è un nido di trapanacarne». Spinel abbassò lo sguardo e si sentì raggilare il cuoio capelluto. L'acqua ribolliva di trita carne, se resi furiosi dall'odore del sangue, con le mascelle che si rinchiudevano di scatto, ticchettando sopra la superficie prima di riaffiorare nell'acqua, torcendosi su se stessi. Non trovando nessuna preda, le creature si mordevano a vicenda e ben presto pezzi recisi di trapanacarne cosparsero la superficie simili a salsicce bollite. Spinel si sentì rovesciare lo stomaco per quanto fosse vuoto. Quando Lystra tornò ad alzarsi, la seguì molto da vicino, tornando alla barca. Osservò le ombre che si intrecciavano fra le sue costole e pensò: «Si è tuffata per tirarmi fuori». Lystra stava facendo segnali con le dita attraverso l'acqua. Un calamaro planante salì dalle profondità e ruotò sul ventre, esibendo un occhio da gufo. Dalla barca Lystra lanciò qualcosa al calamaro, una pura spruzzata di polvere, ma al calamaro dovette piacere molto. Si avvicinò sotto prua e lasciò che Lystra gli infilasse una bardatura. Il calamaro schizzò via e ben presto l'imbarcazione salpò veloce, rimbalzando sul mare mosso. Entrarono nella zattera dei mercanti attraverso una baia tagliata nell'intreccio dei rami, a quanto pareva ad uso delle navi più grandi, che attraccavano dalla parte rigida della zattera. Edificio di cementi imbiancati si accalcavano lungo la baia. Quello più vicino ostentava l'emblema di opali degli Yalite sopra il suo ingresso. «Yalite è la casa della signora Nisi», disse Spinel. «Sì», annuì Lystra. «La migliore di un cattivo branco. Nisi ragiona con loro talvolta». Liberò il calamaro dalle cinghie e gli buttò un altro po' di polvere. «Ecco, ti piace, non è vero?» disse con voce sommessa e cantilenante, rivolgendosi alla bestia. «Lasciami il braccio, vuoi?» «Grazie, vecchia mia». Legò la barca al molo, saltò a terra e si diresse verso il negozio degli Yalite. All'interno il linoleum rinfrescò i piedi di Spinel e fu una gradita benedizione. Gli odori della ferramenta e dell'ambra si mescolavano in maniera bizzarra. Gli scaffali offrivano un assortimento irregolare: torce elettriche, aggeggi da cucina, un'intera fila di macchine fotografiche, catene di plastica di tutte le grandezze disposte a piramide. Ma subito, accanto agli arnesi, c'erano secchi traboccanti di gemme. Granati, topazi, onici. Le gemme non erano incastonate ed erano rozzamente levigate, ma Spinel le toccò con gioia, assaporando in ciascuna di esse il sapore di casa. Però era strano. Chi poteva mai acquistare delle gemme lì su Shora? Crisoliti, amberliti, smeraldi, zaffiri. Zaffiri stellati. Spinel sbatté le palpebre e ritrasse la mano. Stella pietre in vendita come se fossero pietre delle più comuni. Nessuna legge lo proibiva, ma perfino il più miscredente degli iridiani avrebbe esitato prima di mettersi addosso per puro ornamento il sacro emblema di un evocatore dello spirito. «Posso aiutarla, signore?» Il proprietario si sporse con allegria attraverso il banco, appoggiandosi ai gomiti. Sbatté le palpebre e delle pieghe si incresparono il volto. «Quelle gemme si vendono come il pane qui intorno. Le native se le portano via in un batter d'occhio. Sei una faccia nuova, figliolo. Commercio o pesca?» Guardò il petto di Spinel, che si era rigato di sangue e, come sempre, privo di pietra emblematica. «Nell'uno nell'altro», sospirò Spinel. «Se fosse rimasto su Shora non sarebbe mai riuscito ad ottenere una pietra emblematica, ma c'erano poche possibilità che lo facesse. Ha qualche prodotto di fattoria? Tutto quello che riuscirai a mangiare è vecchio neppure di una settimana». «Vecchio di una settimana?» «E lui che era abituato alle messi appena raccolte a Crisoport. Comunque era così affamato che si sentiva l'acquolina in bocca perfino alla vista dei pomodori gialli e dei cavoli appassiti. Ah sì, finalmente sarebbe riuscito ad ottenere qualcosa da mangiare». Thank you. sinistra conosceva bene Kirill, il mercante Ialite, un tipo corpulento e flemmatico, con la serenità di un pescatore. Qualunque altra cosa fosse, la guardava negli occhi tutte le volte e per questo lei gli dava credito. Kirill distolse lo sguardo da Spinel e le rivolse un ampio sorriso. «Spartisco il giorno, Listra», disse nella sua lingua. «Quel calamaro là fuori è una bella bestia». Dalla finestra era ancora possibile vedere il calamaro planante mentre si dondolava sopra le onde con il proprio getto, tuffandosi infine ancora una volta. Era in caccia. Il suo appetito era stato aguzzato da quel faticoso tragitto e dallo speciale trattamento che Listra gli aveva riservato. «È robusta», lei ammise, «è affidabile. Non si tuffa mai quando ha la bardatura». «Bella, senza alcun dubbio. Sai, potrei spartire qualcosa di molto bello per lei. Un collezionista che conosco darebbe qualsiasi cosa. Vale più di una dozzina di barche cariche di seta marina». Listra arricciò il naso. Dubito che le piacerebbe vivere su Valedon». Kirill le ridacchiò. «Come fai a saperlo, Listra? Tutti devono forse spartire i tuoi gusti?» «Ah, certo che no». Listra passò a parlare in valano e alzò la voce. «Questa creatura, per esempio, non vede l'ora di lasciare Shora». Spinel sollevò lo sguardo. «Perché non dovrei? Qui non c'è niente per me». «Ti arruoleremo», gli offrì Kirill. «Tutti stanno cercando aiutanti. Farei la tua fortuna». «Davvero?» Ciò lasciò Listra interdetta. «Lascia perdere. Merven l'ha adottato per un lavoro assai importante. Ha fame. Provvederò a pagare quello che mangia». A quelle parole Spinel agguantò una pagnotta e cominciò a divorarla. Listra mise 3 rotoli di cavo sul banco. Kirill annuì. «Pagamento come? Foglia rossa, medicinali?» «No, seta marina». «Questo fa...» I suoi occhi assunsero un'espressione guardinga. «I prezzi sono saliti di nuovo?» «È parecchio per della seta marina. Potrebbero volerci 3 barche piene». Non poteva aver sentito giusto. «Una barca piena per ciascun rotolo?» «C'è poco acciaio su Valedon. Cosa posso dirti?» I due si fissarono negli occhi. La rabbia di Listra si gonfiò fino ad esplodere. «A cosa serve se non riuscite neppure a governare il vostro pianeta come si deve? Ogni cosa abbonda la prima volta che la spartite, ma non appena ci serve sul serio scompare». «Questo è ingiusto. Sono 2 anni che quei pannelli per tetti ammucchiati laggiù in un angolo e ve li vendiamo a prezzi stracciati. Perché tutte le zattere di Perelion hanno deciso di non comprarli. Nel sistema Valenion quei pannelli costano 5 volte tanto». «Domanda e offerta», le spiegò Kirill pacato. «Se dessi via tutto per niente, perderei la camicia prima del calar del sole». «E con questo?» Kirill si appellò a Spinel. «Vedi cosa debbo sopportare? Non ho forse anch'io dei bisogni? Diglielo tu». Spinel si voltò e prese un'altra pagnotta. Per quello che lo riguardava, non voleva avere nulla a che fare con il comportamento di Listra. Era già stato abbastanza brutto il fatto che avesse varcato una soglia valana senza niente addosso, con una spudoratezza superiore a quella di una passeggiatrice, ma il modo sgarbato con cui si rivolgeva al proprietario superava ogni offesa. Ma Listra non sapeva, né le interessava sapere ciò che Spinel pensava. «Kirill», riprese, «qualunque cosa ti serva per vivere, noi la spartiremo con te fino alla morte. Devi soltanto chiederlo». «La casa di Ialite ha bisogno di seta marina per pagarmi con dei buoni solidi, in modo che i miei bambini possano mangiare. Valedon ha bisogno di acciaio. Se dovessi venderlo tutto qui da voi, l'economia crollerebbe». «Allora perché l'avete portato qui in primo luogo? E perché mai tutto un tratto costa 3 volte più di prima?» Kirill scrollò le spalle. «Cosa posso dirti? La domanda fluttua». Listra fu sopraffatta dalla pietà. pietà per la sua avidità e per le sue percezioni infantili. Se Mervyn fosse stata là, mossa dalla sola pietà, avrebbe dato al mercante qualunque cosa, pensò Lystra. Era per questo che lei insisteva per andare di persona al posto di Mervyn. Anche Ginevra sarebbe andata se non fosse stato per le condizioni di sua figlia. Lystra si appoggiò al banco e lo guardò negli occhi. Non ti credo, Kirill. Il polso le batteva forte. Se avesse detto ad una spartiente: tu spartisci una menzogna, ne sarebbero risultati fra loro interi mesi di ammutolimento. Ha ragione, barbugliò Spine con la bocca piena. È l'assedio pirrolita che... No, no, quello adesso è finito, si affrettò a interrompere Kirill. Assedio? Che assedio? Volle sapere Lystra. Pirropolis, disse Spinel, dove hanno costruito la centrale proibita per produrre in proprio i cristalli di fuoco. L'alto protettore l'ha assediata per mesi e mesi. Cannoni, aerei e satelliti che le hanno rovesciato addosso una pioggia di fuoco. Ci vuole un mucchio di acciaio per quella roba. Perpressa, Lystra fece: assediare con degli astanti è una cosa, ma far piovere fuoco? Qualunque cosa fosse, le pareva irresponsabile. E per dargli una lezione. Poi Lystra ricordò e la sua pelle si agghiacciò. Allora tutti i nostri scambi vanno ad aiutare un gruppo di creature valane a spartire la loro sofferenza con altre. La cosa le rivoltava lo stomaco, come se un trapanacarne fosse spuntato fuori a dirle: spartiamoci lo spasso, Lystra. A dire il vero, Lystra, riprese Kirill, hai capito male. In effetti, se il commercio lunare fosse più redditizio, non ci sarebbe neppure stata una campagna pirolita. Spinner spalancò la bocca. Cosa vuoi dire? Ascolta, figliolo, il commercio lunare è depresso fin dai giorni della peste purpurea che è scoppiata quassù 6 anni fa. Non ha recuperato abbastanza in fretta. In qualche modo le grandi case dovevano rifarsi delle perdite, così hanno rifilato il loro acciaio e il loro cemento a quelli di Pirropolis per la loro centrale a fusione, e l'altro protettore ha guardato dall'altra parte. Una volta che è cominciata la guerra si sono messi a vendere fuoco fruste e incorsoplani pagando le tasse a Iridis, e così hanno fatto felici tutti. Non può essere così, il patriarca non lo permetterebbe mai. È così che è fatto il mondo, te lo dico in tutta franchezza. Non sono certo il tipo che cerca di abbellire le cose. Se non puoi batterli, unisciti a loro. Lystra, se hai bisogno di contante, perché non ti fai ingaggiare da uno dei pescherecci? Un marinaio forte come te gli farebbe comodo. La loro paga è perfino migliore della mia. Per aiutarvi a prendere il pesce delle nostre zattere lasciandocene senza nulla? Spinse da parte i rotoli di cavo. Basta, Nisi, la signora Berenice è tornata e tratterà lei con te. Kirill esitò. Mi spiace, sorella, ma la nuova politica è che non dobbiamo più ascoltare la signora Berenice. Cosa vuoi dire? Cosa vi ha fatto? Niente, ma non è lei il mio supervisore. Le mie scuse per non essere in grado di servirti. I suoi occhi si spostarono verso un altro cliente che si era avvicinato al banco. Era Rilven, la figlia di Ginevra. Le dita di Lystra si sbiancarono. Tornò ad appoggiarsi al banco per recuperare l'equilibrio. Rilven, il cui amore Lystra aveva spartito sin dagli anni della loro adolescenza, soffriva della malattia della pietra, l'inesplicabile smania per quegli oggetti plasmati dalla morte. Gli occhi vacui di Rilven non mostravano neppure di essersi accorti della presenza di Lystra. Era emaciata e con le braccia così magre da sembrare trasparenti. Sollevò un cesto di foglia rossa sul banco. Foglia rossa che doveva aver raccolto riempendone un cesto, cercandola per giorni e giorni. Dalle sue dita caddero 4 pietre levigate prese dal secchio del mercante. Ticchettarono risplendenti sul banco con lo sfavillio malevolo dei bulbi oculari di uno spettro scozza. Kirill non guardò Lystra, anche se le pieghe della sua mano si moltiplicarono. Accettò lo scambio senza dire una parola. Rilven raccolse le pietre, si voltò e si allontanò. Le dita rattrappite dei suoi piedi produssero un sommesso raschiare fino a quando non ebbe valicato la porta. Rilven. L'urlo della sua mente parve echeggiare attraverso il negozio. In realtà, dalla gola non le era sfuggito il più piccolo suono. L'Istra sapeva che quel momento era passato da lungo tempo. Aveva tentato, tutti avevano tentato di curare la crescente ossessione di Rilven per quegli inconcepibili, innominabili oggetti arrivati dalla luna di pietra. Alla fine non c'era stato altro da fare che lasciarla nell'ammutolinamento, come una folle, sola, sul ramo più giovane e remoto di una zattera, fino a quando non fosse venuta a patti con se stessa. L'ammutolimento non era una cura sicura per la malattia della pietra, l'Istra lo sapeva bene, ma né le plasmavita né le tessilemma avevano trovato un modo migliore per quelle di loro che erano afflitte da una simile malattia, sconosciuta prima dell'arrivo dei Valani. A poco l'Istra riprese a respirare. «Avevi promesso?» bisbigliò, sempre fissando la porta. «Una libera spartizione», borbottò Kirill. «Spartire e spartire alla pari, una nuova politica». «Avevi promesso?» ripeté l'Istra. «Rilven è malata». Kirill si schiarì la gola. «La nuova regola è», disse con voce più alta, «che spartiamo con chi ci pare e piace». «Ascolta», tese un braccio verso Spinel. «Ascolta, figliolo, lo chiedo a te. Cosa deve fare un tizio? Mi trovo qui per tenere nutriti e vestiti i miei bambini. Un venditore di alcolici va forse incolpato per l'ubriaco che entra nella sua bottega?» Ma Spinel si limitò a fissarlo, sbattendo le palpebre confuso. «Adesso spartite con tutte le nostre ammutolite?» domandò l'Istra. «Allora tutti i mercanti devono essere ammutoliti». Sollevò i cavi spingendoli in avanti. Kirill sobbalzò quando i rotoli di acciaio caddero con un tonfo dietro il banco. «E noi daremo ancora una volta la caccia agli spettroscossa». Kirill scrollò le spalle e abbassò lo sguardo sulle proprie mani. «Cosa mai posso dirti? Io spartisco il giorno, l'Istra», le gridò mentre lei usciva come una furia. Giusto per svergognarlo, scaricò sul molo tutto il carico di seta marina per pagare il pane di Spinel. Mentre l'Istra si trovava alla stazione commerciale, tutte le auto battezzate di Raiael si stavano radunando al centro della zattera per il concilio, il primo concilio della zattera da quando Merven era tornata. Merven entrò con Usha e Nisi, che insieme sorreggevano Ama. Ama parlò con la sua piccola voce asciutta. «È stato saggio da parte tua, Merven, lasciare il giovane Valano insieme all'Istra così presto?» Merven trasalì, ricordando alcune cose a proposito di l'Istra che le arrecavano dolore. «Devono dividere la stessa casa seta. Se l'Istra desidera spartire il danno, lasciamo invece che spartisca la sua custodia. È il modo più rapido per farlo». Usha la guardò in tralice. «Nostra figlia spartisce la tua cocciutaggine, mia amata. E tu sai che nome prenderà quando verrà il momento». «Lasciate che scelga il proprio nome», disse Ama. «Come farà Nisi oggi?» Nisi tremava come un banco di pesciolini colti di sorpresa. «Un'auto battezzata sceglie un nome adatto e passa il resto della sua vita a rinnegarlo». Il volto teso di Nisi cercò approvazione. Doveva temere la tempesta che stava per affrontare. Merven le strinse la mano per incoraggiarla e Ama sorrise. Di tutte le auto battezzate su Raiael, soltanto Ama era così vecchia e riverita che il concilio aveva dimenticato ufficialmente il suo autonome. La stessa Merven aveva ancora molta strada da percorrere. Verso il centro della zattera, al di là della casa seta, crescevano file di aerofiori galleggianti, tenuti sospesi da serbatoi di idrogeno che essi stessi secernevano. Al di là degli aerofiori, la zattera saliva dolcemente in pendio fino ad un punto in cui sprofondava in una cavità situata al suo centro. Le auto battezzate stavano convergendo verso quel punto. Finora erano più di 100. Shalrim la pigra e Lalor la sbadata avevano anch'esse fatto ritorno da Valedon. Sul volto di entrambe balenavano sorrisi rugosi. Dall'altra parte del gruppo Ginevra stava parlando con altre, in alcune delle quali Merven riconobbe spartienti giunte da differenti zattere di Perelion e un paio di un ammasso che si trovava a molte centinaia di zattere di distanza. Questo era tipico, poiché le auto battezzate viaggiavano spesso per spartire con altri concili allo scopo di rafforzare i legami della ragnatela di Shora. Eppure, per quanto quel concilio potesse apparire usuale, il suo messaggio sarebbe stato atteso dagli altri concili di tutto il globo, tutti ansiosi di spartire il giudizio di Merven su Valedon. La collera nei confronti dei Valani era all'apice, ancora più intensa di quella volta 6 anni prima, quando le plasmavita del settimo galattico avevano plasmato un aeromicrobo resistente alle medicine per spaventare i Valani e costringerli a fuggire da quel pianeta. Guardando quelle che circondavano Ginevra, Merven si chiese quante fossero già chiuse di porta impegnate. Lei veniva chiamata Varca Cielo e si chiese con mestizia se il concilio non fosse diventato una linea con due estremi invece di un cerchio. Al centro, Trurl Pensalento fece schioccare le membrane delle sue dita per attirare l'attenzione. Trurl guardò giù seguendo il suo lungo naso con la dignità ambivalente di un cavallo marino. Aveva la tendenza a tenere semichiusi gli occhi, come se la visuale completa dell'assurdità del mondo fosse eccessiva per poterla sopportare. Si sedette, incrociò le gambe e aspettò che tutte avessero fatto silenzio e si fossero sedute a loro volta nella stessa maniera, con soltanto le punte delle dita che ondeggiavano leggermente sopra le ginocchia. Per qualche minuto il concilio rimase immobile. Immobile come una aiola di anemoni, immobile come le nubi che si stendevano in alto, simili ad una lisca di pesce, da un orizzonte all'altro. Immobile quel tanto che bastava per assorbire tutto lo spirito e la saggezza di Shora. Nella immobilità Merven si rammentò che, come tessilemma, avrebbe dovuto tessere non soltanto le proprie parole, ma quelle di tutte le altre, in una verità che tutte potessero spartire. «Spartite il giorno, sorelle», intonò Trurl, «che le nostre reti non giacciano invano inoperose». Trurl puntò un indice ossuto verso Merven. «Impaziente, le tue reti sono ammuffite per mesi su Raya'el. È stata l'impazienza a farti tornare?» Vi fu un mormorio di approvazione e Merven seppe che questo era un brutto segno, peggiore ancora di quanto si fosse aspettata. Si alzò in piedi e fece passare lo sguardo sulle sue sorelle, tutte sedute nella loro tranquilla posizione triangolare. Per un momento si trovò realmente a desiderare lo spensierato chiacchierio e l'affollamento intorno a lei in quel luogo di terra arida che era Crisoport. Qui non c'era spazio per la spensieratezza, ma soltanto per il più abile tessilemma che conosceva. «Sorelle mie, forse è stata l'impazienza a ricondurmi a casa, perché per quanto si nuoti lontano non c'è porta più gradita di quella della propria zattera di casa. Eppure quest'anno molte di noi spartienti hanno attraversato davvero il cielo fino alla luna di pietra e vi posso assicurare che non è stato per un minore amore della casa che Usha ed io siamo state le ultime a tornare». Merven fece una pausa e poi proseguì. «Adesso che tutte sono tornate a casa, il concilio può spartire il completamento della nostra missione su Valedon. La nostra missione era quella di dimorare sul mondo valano per poter poi spartire un giudizio equanime sull'umanità valana. Ma prima di procedere oltre, una nuova sorella fra noi chiede di spartire un autonome». Sul volto di qualcuna si disegnò un sorriso di avida curiosità. Merven trasalì, sapeva che si aspettavano sua figlia Listra. «Ha condiviso la nostra casa seta come una figlia e il suo marenome è Nisi. Nisi». Vi furono occhiate confuse e le voci frusciarono come fiori di zattera al vento. Trurl intonò: «Allora lasciate che Nisi si alzi», ma invece fu Ginevra ad alzarsi. «Non facciamo le cose in fretta, impaziente. Come possiamo procedere in questo caso senza conoscere i risultati della tua missione?» Le voci mormoranti si spensero in un silenzio scandalizzato. Trurl disse ancora: «Non si è mai sentito che qualcuna faccia la sorda ad un'offerta di autonome. Non si è mai sentito di un valano fra gli autobattezzati». Merven disse: «Nisi è una spartiente. È una valana e un mercante per giunta». Rivolgendosi a Nisi, Trurl sollevò un po' le sopracciglia. Nisi ha spartito il nostro modo di vivere per molti anni. Si merita almeno un'udienza. Ma Mervyn vide quante erano schierate con Ginevra. Perfino l'opposizione di una sola sorella poteva bloccare l'accettazione di Nisi, come qualunque altra decisione del concilio. Nisi aspetterà, allora, ma deve rimanere almeno per spartire il nostro giudizio sulla sua specie. Seguì un dibattito. Shalrim criticò il termine giudizio, dicendo che avevano trascorso troppo poco tempo sulla luna di pietra per apprendere, per non parlare poi di giudicare. Altre erano riluttanti a procedere in presenza di qualcuno che era innominato. Che rimanga pure, dichiarò Ginevra alla fine, ma non aspettarti che la sua presenza possa influenzare il nostro pensiero. Non più della mia presenza, replicò Mervyn. In effetti mi siederò e lascerò che altri spartiscano prima di me il loro giudizio imparziale su Valedon. Ginevra si sedette subito. Doveva aver avvertito di avere perso un po' la faccia, poiché il senso di equanimità di Mervyn era rispettato da un'ampia maggioranza. Mervyn si sedette a sua volta e abbracciò Nisi, il cui volto era un'immagine dell'infelicità, malgrado le parole di incoraggiamento di Usha. Trurl disse: «Sappiamo già ciò che le altre hanno trovato. Rimanete soltanto voi due, impaziente e sconsiderata. Ma per il vostro interesse, che pigra parli di nuovo». Shalrim la pigra si alzò con una scrollata di spalle. «Beh, non posso dire che i Valani non siano umani. Sono eccitabili e molto paurosi, come un calamaro appena uscito dal guscio. Prima l'inchiostro e poi il pensiero. Forse è dovuto al fatto che abitano sul pavimento del mondo, fra le ossa dei morti. È per questo che i Valani indossano stracci, per distinguere i vivi dai morti. L'allora Dio, ci siamo tolte gli stracci un giorno di calore e i Valani erano così spaventati che ci hanno cacciate tutte sole in una cella di pietra. È così triste», mormorò Trurl. «E poi cos'è successo? Siamo entrati in Biancatrans, che altro. Le nostre sorelle Valane hanno pensato che stessimo morendo e hanno tentato di spartire il cibo con dei lunghi tubi. Un tentativo rozzo, ma comunque commovente. Poi ci hanno messi a bordo del Luna Ferri senza neppure chiedere un pagamento. Pagamento era l'equivalente più prossimo che i mercanti avessero per spartire». «Straordinaria generosità», disse Trurl. «Forse i Valani sono più generosi sul loro mondo natio». La fronte di Usha si era corrugata. Mervyn cercò di ammonirla, ma non servì a niente. «Che cosa sono tutte queste sciocchezze, comunque?» disse Usha senza preamboli. «Vi dico che i geni Valani possono mischiarsi ai nostri. Siamo una sola specie, perciò. Cosa c'è di strano se qualcuno di loro ha la pelliccia e gli artigli? La struttura della loro mente non è soltanto simile, è la nostra». Ginevra balzò in piedi. «Così è questa la bella conclusione, tua e di Mervyn? Questo avresti potuto dircelo con il tuo microscopio, senza mai lasciare il tuo posto di plasmavita nelle gallerie di Raya Hell. Ma per fare un umano ci vuole qualcosa di più della fisiologia. La tua missione consisteva nel vedere se i Valani potevano vivere come umani, e perciò se possono morire come umani». Si guardò intorno, ma nessun'altra pareva desiderosa di seguirla su quel tema. «Sappiamo tutte come vivono i Valani su Shora. Spartiscono il veleno per il pesce, il veleno per la mente. Spartiscono doni miracolosi per pagamenti impossibili. E cosa accade ai doni alla fine? Quei fuocomotori delle barche, per esempio. Infine ho la prova che è proprio il loro motore quello che smorza le canzoni degli stellavermi, le quali un tempo arrivavano da qui all'ottavo galattico». Quest'ultimo era un colpo per Mervyn. Tutte sapevano che era stata lei, con l'incoraggiamento di Nisi, ad introdurre i fuocomotori su Raya El. Ginevra concluse in tono trionfante: «I Valani non vivono come gli umani. Come spartienti inferiori non hanno nessun posto nell'equilibrio della vita. Perfino gli inghiottitori hanno un posto su Shora. Ma l'oceano ha girato per eoni senza i Valani, perciò adesso sbarazziamoci di loro». Usha replicò: «Allora guarda la faccia del mare. I Valani sono tue sorelle, implacabile». A queste parole Ginevra riuscì a stento a rispondere, tanta era la collera che la dominava. Deglutì rigida e le punte delle sue dita si sbiancarono. «Per mia figlia non c'è più nessuna speranza. Come posso perdonare? Dov'è tua figlia oggi?» Squadron Mervyn. Tutte si azzittirono. Mervyn si sentì girare la testa, ma continuò a respirare regolarmente. Adesso entrare in Biancatrans non sarebbe servito a salvare niente. Arrivata ad un punto come quello, Trurl pareva riluttante a spingersi oltre, e i suoi occhi si chiusero del tutto. Nessuno parlò fino a quando Ama non levò la propria fragile voce, sforzandosi di fare in modo che il maggior numero possibile di loro riuscisse a sentirla. Non posso fare a meno di notare che niente di quanto è stato detto finora sui Valani o sui mercanti sia peggiore di quanto è risaputo che le spartienti hanno detto le une delle altre. C'è stato il grande ammutolimento fra i sistemi di Perelion e Srielion, e per che cosa? Tutto per il diritto di concepire qualche figlia in più senza aggravare l'equilibrio della vita. C'è stato abbastanza furore da nutrire un intero branco di trapanacarne, eppure allora non ho sentito nessuno proporre di sbarazzarci. Sì, lo ricordavano. Com'era possibile che qualcuno di loro dimenticasse gli assilenziosamenti o le testimonianze, quando molte barche piene di sorelle erano venute a Raiael per protestare in silenzio? C'erano voluti anni per ritessere i fili lacerati della spartizione, ma alla fine erano stati ritessuti. Le vere spartienti lo facevano sempre. Alla fine Shalrim si alzò di nuovo. Credo che i mercanti valani abbiano imparato a spartire per certi versi. Hanno acconsentito a smettere di spartire pietre con la figlia di Ginevra e le altre malate di mente, e limitano l'uso dei loro veleni e del modo di pescare quando Nisi spartisce parola con loro. Perciò tentiamo ancora di più. Abbiamo Mervyn l'impaziente, la più dotata delle Tessilemma, che ha contribuito a curare quel grande ammutilamento prima ancora di avere un autonome, e la cui saggezza da allora è stata cercata lontano, fino al quinto galattico. Lasciamo che lei e le altre tentino più di quanto abbiano mai tentato prima. Tentare, le fece eco Ginevra. Cos'è che non abbiamo tentato che non fosse umano? Il ricordo ciò che non è umano, il modo in cui alcuni valani si sono comportati, come trapanacarne. A queste parole parecchie sorelle si irrigidirono scandalizzate, le altre le voltarono la schiena. Non mostratevi così sdegnate, proseguì Ginevra. Per quale motivo siamo qui se non per parlare di questo? Mervyn chiuse gli occhi. C'erano stati incidenti, specialmente negli anni più recenti, quando i valani avevano in maniera deliberata spartito ferite fisiche fra loro o con le spartienti, al punto a volte da morirne. E su Valedon c'erano quelli che proclamavano con franchezza che la morte paga un salario. Eppure i valani non spartivano mai l'ammutolimento, né mostravano un indizio di qualche tipo di cura per questi ovvi difetti mentali. La possibilità di una psicosi diffusa era inimmaginabile, ma andava affrontata se i valani erano umani. Svegliati, impaziente! Il grido di Trur la fece sussultare. Se insisti a rovesciare il tuo nome come un guanto, resteremo qui tutto il giorno. Spartiamo ciò che hai trovato su Valedon. Così Mervyn tornò ad alzarsi. Molti valani hanno spartito il sapere con noi. I valani fanno presto ad arrabbiarsi e presto a perdonare. Anche se sono incapaci di andare in Biancatrans, sembrano rispettarla se noi la facciamo sul loro mondo. Come fanno qui sul nostro? Non più, ribatté Trurl. Mentre eravate via, 8 sorelle di Rilael sono salite a bordo di un peschereccio per testimoniare in Biancatrans, fino a quando i pescatori non avessero smesso di dragare i canali della loro zattera. Beh, le testimoni sono state buttate fuori dall'imbarcazione. La notizia prima la addolorò, poi le fece provare una desolante sensazione fatalistica. Tuttavia, insistette Mervyn, potrebbero essere in grado di imparare la Biancatrans se superassero le loro paure. Desiderò per la millesima volta che Nisi ci provasse. Questa idea suscitò il loro interesse. Allora forse potrebbero prendere anche loro degli autonomi, suggerì qualcuna, se la loro mente funziona come la nostra. Avete incontrato qualche autobattezzato su Valedon? Mervyn non rispose. Niente Biancatrans e niente autonomi. È un miracolo che siano riusciti a sopravvivere, dichiarò Trurl. Devono avere qualcosa che li sostiene. Annuì, invitando a parlare un'altra sorella sul lato opposto della conca, la quale le chiese: è possibile che la persistenza dei maschi anomali abbia mantenuto la razza valana in uno stadio primitivo? Soltanto le razze inferiori producono maschi. Oltre a Nisi, Mervyn si affrettò a rispondere con la speranza di evitare un altro sfogo da parte di Usha, si dà il caso che l'unico valano da noi incontrato che avrebbe potuto prendere un autonome fosse maschio. Un maschio anziano che portava una stella incastonata nella pietra. Si appellava ad uno spirito della vita e del potere molto prossimo alla sciora che noi conosciamo. Soltanto che quest'altro spirito pareva dimorare molto lontano, dove pochi potevano sentirlo. È per questo che più una decisione è importante per i Valani e minore è il numero di loro ai quali è consentito prenderla. Trull sospirò. Perfino le bambine la pensano altrimenti. Senza autonome i Valani sono bambini. Sono imprigionati nell'infanzia. Qualcuno chiese: come puoi dire che i Valani sono bambini e non creature primitive, spartienti inferiori? Merben bisbigliò: non lo so. Cosa dici? Parla ad alta voce, per favore, la sollecitò Trull. Non lo so. Ci vorranno generazioni per saperlo di sicuro. È per questo che ho portato a casa Spinel, un giovane maschio, perché vivesse con noi. Ecco, adesso l'aveva detto. Si sedette a riprendere fiato mentre intorno a lei si levavano rantoli attoniti al pensiero di quel concetto così radicale. Ginevra parlò di nuovo, come se le avesse letto nella mente. Ginevra, che aveva spartito la vita di Merven in modo così intimo per un lungo periodo, tanto tempo addietro. Eppure, malgrado gli anni trascorsi da quando si erano separate, conoscevano ancora così bene il cuore l'una dell'altra. «Mia cara sorella», cominciò a dire Ginevra scandendo le parole, «hai davvero rovesciato il tuo nome come un guanto. Credi davvero che siamo disposte ad aspettare per generazioni che tu completi la tua missione? Non c'è nessun altro modo. Nel frattempo dobbiamo supporre che siano umani. Supporre! Quando minacciano la ragnatela stessa della vita su Shora, dobbiamo strapparli via dalla ragnatela prima che sia troppo tardi». Merve non disse niente. Perfino i trapanacarne avevano il loro posto nella ragnatela. Ma i Valani? Oppure pensi che i Valani siano già saldamente intrecciati al tessuto? Ascolta, possiamo scartare i loro fuocomotori, possiamo perfino dar di nuovo la caccia agli spettro scossa. Non ci servono i mercanti, non ancora. Possiamo chiudere la porta. Merve tirò un profondo respiro. Ginevra, spartisco il tuo pensiero. Ho filato e tessuto seta marina durante tutte le settimane che sono rimasta seduta sotto l'arido sole su Valedon. Eppure ti chiedo, chi di noi qui tesse più seta marina di Nisi la Valana? Aveva alzato troppo la voce, così la abbassò perché altre fossero costrette ad ascoltare per sentire. Ti dirò che altro ho appreso su Valedon. Sono pericolosi, più pericolosi di quanto tu possa immaginare. Se non sono umani, se non hanno una porta sull'io, allora sono di sicuro le creature più micidiali che Shora abbia mai conosciuto. Ma supponi che siano nostre sorelle, come Usha dice, e supponi che muoiano per mano nostra. Chi spartirà la loro distruzione? Le due rimasero là in piedi, incrociando gli sguardi. La schiena di Ginevra era rigida come il corallo. Sollevò il mento di una membrana e i tendini guizzarono sul suo collo. Allora che la Valana parli per sé, che nomini le tre porte. I nomi delle tre porte erano la prova più antica di un'autobattezzata. Così Nisi si alzò in mezzo a loro. La sua pelle non era ancora scura, ma di color lavanda, poiché i suoi aeromicrobi avevano cominciato a fiorire di nuovo. Merven si sedette accanto a lei e guardò i suoi piedi. Erano così piccoli e privi di membrana, con gli artigli delle dita tagliati in modo accurato. Ginevra disse: «Nomina la prima porta di Shora». «Il sole che spartisce tutta la vita», rispose Nisi. «Nomina l'ultima porta». «La morte che tutte, alla quale ciascuno di noi accede, eppure che nessuna spartisce». Ginevra fece una pausa, poi con estremo sforzo proseguì: «Nomina la tua porta». «Nisi, l'ingannatrice». «Ingannatrice», Merven annuì lentamente. Era un buon nome per Nisi, lo capiva. Intorno a lei le altre sospirarono. Adesso di certo non avrebbero potuto respingere Nisi, anche se una singola voce sarebbe stata sufficiente. Ginevra non aveva finito. Le sue labbra si incresparono, poi si rilassarono. «Ingannatrice», bisbigliò. «Non c'è nome più difficile di questo da ripudiare». Si girò e abbandonò rigida il concilio. Merven fece per alzarsi, soffocando un grido in gola. No, Ginevra non doveva andarsene adesso, anche se era suo diritto astenersi piuttosto che bloccare il concilio. Adesso, più che in qualunque altra occasione, il concilio doveva essere unanime. Una vittoria senza Ginevra era davvero vuota. Mentre guardava le forme purpuree che flettevano gli arti palmati, Berenice si chiese come riuscisse a rimanere in piedi. La sua mente barcollava ancora sotto l'impatto di ciò che aveva ascoltato. Dalle fibre della trama che tenevano insieme il tessuto del concilio, un filo le era caduto sul palmo della mano, pesante come il piombo. Le spartienti credevano davvero di poter spazzare via il suo popolo dal loro pianeta, anche se non l'avrebbero fatto se i Valani fossero stati gente? Potevano farlo? Forse l'inviato Malachite sapeva o lo sospettava. Berenice stessa sapeva che il plasmare la vita delle spartienti andava molto al di là di qualsiasi cosa conosciuta su Valedon, ma non le era mai venuto in mente che la sua funzione potesse venire deformata. Eppure, Per quale altro motivo scienze come quelle erano proibite su tutti i pianeti del patriarcato? E la missione di Merven, c'era in essa più di quanto lei si fosse mai sognata, anche come ipotesi peggiore? Si sentì rabbrividire al pensiero di quanti cittadini valani potevano dovere la propria vita a Merven e a lei, Nisi l'ingannatrice. Eppure quante vite di spartienti sarebbero state condannate se lei e Spinel avessero sbarrato la loro ultima speranza di autodifesa. Gli orecchi le intronavano, due pianeti luna le giravano davanti agli occhi, febbricitanti. Berenice scrollò la testa per schiarirsela. Un popolo primitivo simile ai bambini che non sapeva niente della volontà e del potere. Era questo che Talion pensava delle spartienti. E come poteva spiegare in un altro modo ciascun partito all'altro? Ingannatrice e ingannata. La stessa parola nella lingua delle spartienti. Era forse un inganno continuare a spiegare qualcosa che lei stessa non comprendeva del tutto? Quanto bene aveva scelto il suo nome, Nisi. Grazie per averci ascoltato, Nancy, Rosina e Elisa al mixer. Vi diamo l'appuntamento al 26 gennaio per proseguire la lettura della difesa di Shora.